3 giugno del 1946, San José María ha celebrato la sua prima messa in Italia, a Genova, e noi oggi ci ricordiamo di quella messa nella quale, con ogni probabilità, ha pregato il Signore sia per il motivo per cui veniva a Roma, quindi le difficoltà di comprensione di questo nuovo cammino nella Chiesa, no? Che Don Alvaro aveva trovato nello spiegare l'opera ai primi con cui ha parlato a Roma nella Santa Sede, quindi aveva scritto al fondatore: c'è bisogno che venga lei di persona per spiegare meglio, insomma, per superare quegli ostacoli. E poi penso, possiamo immaginarci che abbia pregato per lo sviluppo del lavoro apostolico dell'opera in Italia, e quindi da quella messa noi pensiamo che, ecco, tutto quello che oggi noi siamo e anche che vediamo, che lavoriamo, no? E sia scaturito tutto nella Chiesa, nasce dall'Eucaristia. La Chiesa vive dell'Eucaristia, è la stessa, sì, tutta la stessa vocazione di San José María è nata nell'Eucaristia. Lui, dopo aver avuto quella, da giovane adolescente, no? quella scossa forte, no? a Logroño, quando vide quelle orme sulla neve del Carmelitano scalzo, poi dopo cominciò ad andare alla messa quotidiana, per questo anche aveva tanta devozione per San Pio X, perché era il Papa che aveva proprio in quegli anni, pochi anni prima, favorito la comunione frequente, anche quotidiana, e che prima era un po', ecco, aveva delle difficoltà, insomma, aveva molta devozione, e, ecco, e riceveva con affetto le reliquie che i parenti di San Pio X gli regalavano, no? E fece mettere una statua lì di questo santo nell'ingresso dell'oratorio di Santa Maria della Pace a Capabianca, per chiedere la sua intercessione per la nostra devozione eucaristica. Pensate, tutta quelle preghiere anche prolungate, anche lungo tutta la notte, quando si visita il seminario di San Carlo a Saragozza, no? si rivede quel balconcino dal quale lui faceva le sue lunghe adorazioni notturne, oppure sì, quando si visita il santuario della Madonna del Pilar, ci ricordiamo che a volte lui, d'accordo col sacrestano, si faceva chiudere dentro per fare tutta la notte in adorazione e in preghiera. Ecco, da quelle lunghe adorazioni eucaristiche e possiamo dire che è nata questa sua vocazione ad essere il fondatore dell'Opus Dei, e quindi e tutti noi anche siamo stati generati. A lui piaceva ricordare questa sua paternità. Vi ricordate che quando pochi giorni dopo la sua morte, quando Don Alvaro ci scrisse una bella lettera con i particolari di quei giorni, ci diceva quello, come aveva deciso di non obbedire a quello che San José Maria aveva lasciato detto, no? Scrivete sulla tomba solo José Maria peccatore, no? Peccator. E poi se volete potete aggiungere genuit filius et filias, quella frase biblica con, che viene spesso ripetuta dei patriarchi, no? Quindi nostro padre diceva sono consapevole, pensava per sé, no? E nella sua preghiera sono consapevole di avere, di essere sulla terra per mettere in pratica questa, per realizzare questa paternità che deriva in fondo da Dio, perché ogni paternità nei cieli e sulla terra sempre deriva da Dio. Mettere in pratica questa paternità, realizzare questa paternità. E noi possiamo pensare che, così come lui diceva anche per tante altre cose, no? Dal cielo vi aiuterò meglio, anche dal cielo questa paternità si compie meglio, e di più, per cui e continua ad essere attuale questo suo intercedere, è ancora più efficace in cielo da santo del cielo, intercedere perché altre persone colgano questo spirito e scoprano che il Signore le chiama a viverlo, ad essere suoi figli. Quando definiva lo spirito dell'opera, gli piaceva definirlo così, come una consapevolezza di essere figli di Dio. Una consapevolezza di essere figli di Dio, e che è una caratteristica anche utile per il discernimento della vocazione, no? I figli che sappiano, no? che sono figli del Padre del Cielo, no? E indubbiamente lui era consapevole, e ci passava questa consapevolezza, no? che la filiazione divina è fondamento della nostra vita spirituale, è la caratteristica più specifica, forse più profonda, no? della nostra vocazione, oltre a poi ad altre realtà pure molto importanti, per esempio la consapevolezza di essere chiamati ad essere cristiani in mezzo al mondo, a santificarci in mezzo al mondo, in mezzo a tutte le realtà terrene, ad amare il mondo appassionatamente, la consapevolezza di essere apostoli, di aver ricevuto nel battesimo quel comando di Cristo, il comando apostolico, e di doverlo portare avanti in modo principale, con responsabilità personale, con la personale amicizia, no? Ecco, se ripenso a quel viaggio, a quel primo viaggio che fece San José Maria proprio come fondatore, no, in Italia, in quel giugno del 46, e vi ricordate le caratteristiche? Quindi era malato, il medico gli diceva di non venire perché poteva, ecco, rischiare la vita per come stava male con il suo diabete, e però lui decise di venire lo stesso, no? Si sentì chiamato dal Signore, non ebbe paura di affrontare quel viaggio, e sentiva tutta la proprio la la responsabilità paterna di tutte le persone che avevano chiesto la missione all'opera in quegli anni e di tutti quelli che sarebbero venuti, quindi tutti noi. E quindi da quello si comprende, no? Il tema della meditazione che predicò a quel piccolo gruppo di figli suoi a Barcellona prima di partire, no? Prendendo le parole di Pietro che diceva: Signore, ma noi, ecco, noi abbiamo lasciato tutto, no? Che sarà di noi, no? Era come un grido filiale, un affidamento anche un po' drammatico, no? È possibile che ci dicano che siamo arrivati con un secolo di anticipo, no? Cioè, chiedeva al Signore che di poter avere dalla madre Chiesa questa accoglienza, la comprensione, no? del nostro spirito, e ecco, quindi non era un non aver paura, come dire, superficiale o temerario, insomma, di chi non si rende conto dei problemi, si rendeva conto di queste difficoltà, per questo voleva venire, e si rendeva conto che era vero quello che gli diceva il medico, e peraltro in quel viaggio fu particolarmente travagliato con quelle tempeste terribili nel mare, però anche lì non ebbe paura e sapeva scherzare con José Orlandis, no? Che lo accompagnava e scherzava pensando che se affondavano con la nave poi Pedro Casciara non avrebbe più mangiato pesce per tutta la vita, no? Perché allora mi pare che appunto anche preparandoci alla festa del 26 giugno, la sua memoria, no? E dovendo pensare a qualche aspetto della sua predicazione, del suo spirito che ci passerebbe, la mente, il cuore mi va su questa dimensione della filiazione divina che vince la paura, no? E questo non abbiate paura, no? Che nostro padre ci diceva con frequenza, lo applicava soprattutto all'affetto, alla carità, all'amore, no? Non abbiate paura di volervi bene. E evidentemente il riferimento più forte di tipo biblico da cui attingeva è la lettera di San Giovanni Apostolo. E in cui questa tematica dell'amore è continuamente trattata, no? Ed è totalmente collegata con la filiazione divina. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore. Qualunque cosa esso ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato. E chiunque ama è stato generato da Dio. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E così via, no? E sono è la meditazione di San Giovanni. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nell'amore non c'è timore, al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Questa frase piaceva molto a San Cosimaia, la citava tanto spesso, e in latino spesso la citava qui: autem timet non est perfectus in caritate. Però poi nel tradurla, io la traduco così, diceva: chi ha paura non sa amare, cioè la rendeva quasi più radicale. E d'altra parte dobbiamo pensare il primo che ci ha amato, che è stato il Signore, non ha avuto paura, no? Non ha avuto paura, possiamo dire così, a diventare uomo, a farsi uno di noi. Non ha avuto paura, eppure è una cosa così grande che è una follia, no? È una pazzia. È una pazzia d'amore. E poteva pensare, e fra l'altro lo sapeva: non mi capiranno, non mi crederanno, non mi accoglieranno. E addirittura mi condanneranno a morte, no? Mi uccideranno la mia vita. E però lui ha saputo poi girare per il bene questa invece follia di peccato e questo odio che è venuto proprio per vincerlo, no? E per vincere il male si è lasciato ferire e uccidere dal male. Non ha avuto paura il Signore, ma poi la passione della paura l'ha avuta anche lui, perché proprio è veramente uomo con tutte le caratteristiche, tutti i sentimenti, no, dell'umanità. E quindi cominciò a provare paura e angoscia nell'orto degli ulivi, no? Però poi questa paura lui l'ha vinta proprio con la consapevolezza di essere figlio di Dio. E quindi ha pregato il Padre, gli ha chiesto che se era possibile che quella sofferenza passasse da lui, ma poi gli ha detto: sono qui per fare la tua volontà. E in quel modo lui ha recuperato la serenità e la pace e la compagnia di Dio: non sono solo perché il Padre è con me. E quindi ha vinto quel timore. E ricordo che da qualche parte mi ero scritto una frase di quelle, non so la fonte, ma sempre di San Cosimaia, che diceva appunto che di non aver paura a volerci bene, a darci la mano, a darci il sangue, a darci la vita, insomma, e questo è quello che fa un padre e una madre con i figli, cioè dona la vita. Questo è quello che fa Dio con ciascuno di noi. E anche ieri che meditavamo sul corpo e sangue del Signore, e continuiamo a farlo nell'ottava del Corpus Domini, contemplando l'Eucaristia, in te Gesù che sei così nascosto nell'Eucaristia e prigioniero d'amore di questo tabernacolo, per amore nostro. Dobbiamo contemplare nell'Eucaristia, vogliamo contemplare nell'Eucaristia più che il mistero grande di questa presenza che vince tutte le leggi dell'universo, che instaura una realtà nuova, che pure è bello contemplare questo. In realtà ci può prendere il cuore contemplare la motivazione profonda, che è un amore così grande da parte tua per noi, che desidera darci la tua vita così come tu l'hai data sulla croce, bruciandola, così la doni nell'Eucaristia lasciandola mangiare. Io sono il pane vivo, leggevamo nel Vangelo della festa del Corpus Domini, disceso dal cielo: se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questo è quello che fa, anche se, diciamo così, nella vita naturale un padre dona parte della sua carne, del suo sangue, per mettere al mondo un figlio, una madre ancora di più, perché proprio lo nutre con la sua carne, con il suo sangue, finché è in grado di nascere. E mi viene in mente in questo momento che mi hanno chiesto di pregare nella messa per una bimba che sta per nascere, che però ha una deformazione cardiaca molto importante, deve essere operata subito dopo, e così me la ricordo e ce la ricordiamo oggi. Ecco, una madre dà la carne e il sangue per la vita, un padre, e poi dopo lungo la vita, evidentemente è così. Quindi questo modo di fare del Signore è molto umano, anche se ancora più radicale, ed è evidentemente di ordine soprannaturale. Ma noi che sempre ci domandiamo come, Signore, tu ci hai amato affinché anche noi ci possiamo amare secondo questa misura che tu ci hai dato, ecco, evidentemente quando contempliamo questo tuo amarci senza paura di darci addirittura la tua vita, evidentemente troviamo una misura così alta, così alta, così grande, che ci rendiamo conto di non essere in grado. Però sappiamo che tu, con la tua Eucaristia che ci doni ogni giorno, ci rendi sempre più idonei ad amarci tra di noi e ad amare la nostra vita intorno a noi, no? Come nel culmine del martirio sanno fare i santi martiri, che donano la vita perché altri possano avere la vita soprannaturale, perché possano nascere la fede in Cristo. E noi, e così, non dobbiamo avere paura di amarci, di donare la nostra vita, di, come dice Gesù, di perdere la nostra vita per ritrovarla, perdere la vita per ritrovarla. Allora ti chiediamo, Signore, con l'intercessione di San José Maria, che appunto, ricordando così quel piccolo frammento della sua vita che lo portò a dedicarsi a noi, anche con quel viaggio periglioso, anche così rischiando la vita per il stato di salute che aveva, quei viaggi allora molto faticosi, perché erano più faticosi di oggi, no? Da Genova a Roma tutto il giorno, con macchine che immagino non avevano il riscaldamento, diciamo non avevano l'aria condizionata, no? E poi i sacerdoti allora viaggiavano con la veste anche nei viaggi, no? E così, e poi senza soldi e con la cena, che insomma si limitò a un pezzetto di parmigiano, quella, insomma, tanti fattori di diciamo così, di mortificazione, di donazione della vita, no? Con la sua intercessione chiediamo al Signore di comprendere lungo la nostra vita quotidiana che cosa significa questo darci in cibo dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, delle persone che ci chiedono la vita soprannaturale, che ci chiedono la vita di Cristo, che ci chiedono la nostra vita per poter loro vivere. In fondo questo è quello che fai tu, Gesù, lo fai anche adesso, lo fai tra pochi minuti nella messa, lo fai quando vieni a noi nella comunione. E è quello che tu fai, e allo stesso tempo possiamo dire che tu hai ricevuto dalla Madonna, no? La Madonna ha fatto con te questo, non solo nei 9 mesi della gestazione del Figlio di Dio nel suo seno, ma anche lungo tutta la vita, e anche possiamo pensare lungo tutta la vita pubblica. La Madonna, anche se nel Vangelo è citata poche volte, ti è stata sempre vicino, come è vicino a noi. Quindi chiediamo anche alla Madonna che stia costantemente vicino a noi, perché noi sappiamo vincere la paura con la consapevolezza di essere figli di Dio, con quello slancio che aveva San José María, che diceva: non dobbiamo avere paura di niente, di nessuno. Io non ho paura di nulla e di nessuno, perché, e neanche di Dio, perché è mio Padre. Ecco che la Madonna, figlia di Dio, sposa di Dio, madre di Dio, ci aiuti a coltivare questo spirito da figli che vincono la paura.